come stai? È un po' che non ti sento. Mi ha raccontato che hai subito un cambiamento. E già sai com'è che va qua. Non c'è libertà ma perplessità della realtà. Sì lo so, però sopportazione. Per ogni azione esiste una spiegazione. Non dovrei renderne conto a nessuno. Non è sbagliato per una volta pensare al proprio culo. Mi trovi in completa sintonia col tuo discorso, ma non dovresti abbandonare il tuo percorso. Allora sentimi, amico mio, l'ho già fatto, ti assicuro, si sta da Dio. Io non lo metto in dubbio, ma le conseguenze ci pensi mai, vedrai qualcosa perderai. Ah sì, chi non mi merita saluto, io non morirò con l'ansia di non aver vissuto. Ora lasciami, abbandonami, ti sto parlando. Ora curami, perdonami, ti sto guardando. Io ci provo, ti assicuro, non ci riesco. La tua pazzia non finirà presto. Ora lasciami, abbandonami, ti sto parlando. Ora curami, perdonami, ti sto guardando. Io ci provo, ti assicuro, non ci riesco. La tua pazzia non finirà presto. Ti stai spingendo al largo, troppo oltre. Noto che stavolta non è come le altre volte. Non posso lasciar passare un altro giorno. Varcata quella soglia, non c'è ritorno. Il punto è che il punto l'ho già superato. Proseguo bendato. Ti o vi potevo aspettare. Pochi mare aperto e sanno navigare. Io mi chiedo perché fai così. Ora calmati e raccontami. Hai nelle cuffie un CD che mi descrive di uno che al tuo confronto non parla ma vive. Aspetta, frena la bocca. Ora sotto a chi tocca. Tocca a te, tocca a voi, tocca, tocca a noi. Se tocca a me ti assicuro sono cazzi tuoi. La penna scrive e la bocca parla. Chiedo spiegazioni ma la gente tutta ritaglia. Faccio ciò che voglio, ciò che porto dentro. Ora sono spoglio da ogni impedimento. Nessun risentimento, io non ho bisogno. Vivrò la mia vita come un sogno. Ora lasciami, abbandonami, ti sto parlando. Ora curami, perdonami, ti sto guardando. Io ci provo, ti assicuro, non ci riesco. La tua pazzia non finirà presto. Ora lasciami, abbandonami, ti sto parlando. Ora curami, perdonami, ti sto guardando. Io ci provo, ti assicuro, non ci riesco. La tua pazzia non finirà presto. Ora lasciami, abbandonami, ti sto parlando. Ora curami, perdonami, ti sto guardando. Io ci provo, ti assicuro, non ci riesco. La tua pazzia non finirà presto. Ora lasciami, abbandonami, ti sto parlando. Ora curami, perdonami, ti sto guardando. Io ci provo, ti assicuro, non ci riesco. La tua pazzia non finirà presto.